tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si apre una voragine sul Lungarno a Firenze, decine di auto inghiottite, la causa nei tubi dell'acquedotto che hanno ceduto, nessun pericolo per i palazzi, dice il sindaco. Una lite per una ragazza, per questo sarebbero stati uccisi in due un anno fa in Sardegna, stamattina l'arresto dei presunti assassini, hanno 18 e 21 anni. L'antitrust interviene sui vaccini, ci vuole più trasparenza sui prezzi, dice, chiede di abolire la distinzione tra obbligatori e raccomandati. Unicredit in cerca del nuovo amministratore delegato dopo l'annuncio dell'addio di Ghizzoni per il rafforzamento del capitale. Due ipotesi, aumento o cessioni. Maxi inchiesta sullo smaltimento illecito dei rifiuti in Campania per 250.000 tonnellate, il materiale usato per produrre mattoni depotenziati utilizzati in molte case. Lo arrestano ed è sotto processo in Liguria per 4 orologi falsi che aveva nella borsa, ma è un ispettore di Louis Vuitton che si occupa di contraffazione. La prossima udienza sarà a luglio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Vi ricordo i nostri contatti, che sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, e poi infine la mappa che abbiamo attivato da qualche giorno, che trovate andando a cliccare sul nostro sito www.radio24.it /effettogiorno, nella quale trovate tutte le storie che raccontiamo ogni giorno, localizzate, per meglio dire geolocalizzate. In apertura dunque ci occupiamo della voragine che si è aperta sul Lungarno a Firenze, un fatto che è avvenuto questa notte, una voragine di 200 metri che ha letteralmente inghiottito una serie di auto che si trovavano parcheggiate in zona. Tra un attimo andremo a collegarci, appena riusciremo appunto, con Firenze, per farci raccontare qual è la situazione al momento, e più avanti nel corso della trasmissione parleremo col sindaco di Firenze Nardella. In attesa di chiarire cosa è successo, un dato è certo: facciamo troppa poca manutenzione delle reti idriche. Sentiamo cosa ci dice Emanuela Cartoni, direttore area idrico-ambientale di Utilitalia, che è la Federazione Nazionale dei Gestori Idrici, intervistata da Laura Bettini. Mettiamo per un attimo da parte il caso Firenze, le nostre reti idriche comunque hanno bisogno di più manutenzione. Sì, perché sono comunque reti fatte negli anni 50, 60, 70, 80. La manutenzione è sempre un tema che a volte viene messa da parte, perché si pensa più agli investimenti nuovi, quindi a estendere le reti, ma anche quelli che ci sono vanno manutenute. Questo comporta dei costi, e quindi per non aumentare troppo le tariffe si cerca di limitare. Uno dei problemi dell'intervenire nelle nostre città forse può essere anche la loro antichità? Sì, questo sicuramente complica in tutte le città, in particolare in quelle storiche. Ogni intervento diventa più complicato proprio dal punto di vista tecnico e logistico, e anche più costoso. Quanto spendiamo per la manutenzione delle reti? Spendiamo in totale sul servizio idrico circa 2 miliardi l'anno. Di questi la parte della manutenzione potrà essere un 30%. Quale potrebbe essere una percentuale più consona, diciamo, al tipo di interventi che dobbiamo fare? 5 miliardi l'anno dovrebbero essere gli investimenti, più o meno suddivisi a metà fra la manutenzione e le nuove opere. Questo per quanto riguarda, se vogliamo, l'approfondimento che riguarda più strettamente appunto il tema della manutenzione degli impianti idrici, che sembra che siano alla base di quello che è successo a Firenze. Tra un attimo andremo alla cronaca, ma noi restiamo sulla cronaca, in questo caso la cronaca nera, con i due arresti di stamattina per l'omicidio nel Nuorese. Tutti giovanissimi i protagonisti della vicenda, le vittime e i killer finiti oggi in manette. L'8 maggio del 2015 ad Orune, in provincia di Nuoro, viene ucciso Gianluca Monni alla fermata dell'autobus mentre andava a scuola. Nelle stesse ore scompare Stefano Masala, 29 anni, il cui cadavere non viene mai ritrovato. Ad ucciderli per futili motivi due coetanei di 18 e 21 anni. I fatti parlano da soli e dipingono un quadro assurdo. Una ragazza importunata durante una sagra, la fidanzata di Monni. Una lite, una brutta figura davanti agli amici, alcune parole postate 5 mesi dopo su WhatsApp e fraintese. I killer sarebbero Paolo Enrico Pinna del 1998 ma minorenne all'epoca dei fatti e Alberto Cubeddo del 1995, cugino di Pinna. I due sono ritenuti responsabili in concorso dell'omicidio premeditato e per futili motivi di Monni, del sequestro di persona a scopo di rapina e dell'omicidio di Masala, della distruzione del suo cadavere e dell'incendio della sua vettura utilizzata per compiere l'omicidio di Monni. La svolta nelle indagini arriva nonostante le tante reticenze, hanno detto in conferenza stampa gli inquirenti. Non poche sono state le difficoltà legate anche ad una resistenza, anche a qualche tentativo di disinformazione da parte delle persone che potevano fornire indicazioni. Proprio oggi si tengono i funerali della madre di Masala, Carmela Dore, 59 anni, morta ieri, alla vigilia della svolta che aveva tanto atteso. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si profila una soluzione per la Grecia, almeno dal lato degli aiuti. Oggi si riunisce l'Ecofin. È stata una partita difficile, dice il presidente dell'Eurogruppo. Noi abbiamo chiesto molto alla Grecia, l'FMI ha chiesto molto a noi e anche noi abbiamo chiesto molto a Washington. Un cerchio o il gioco dell'austerità al rialzo, in cui la Grecia, per non prestare più il fianco a critiche e alibi, ha risposto a tutte le richieste, varando negli ultimi giorni misure draconiane. Non a caso Dracone era ateniese. Un passo importante incalza questa mattina da Esselblum, già pronto per l'appuntamento Ecofin, dove in agenda c'è la discussione sull'IVA comunitaria e quella sugli squilibri macroeconomici dei 19, ma dove si parlerà anche di Grecia. 10,3 miliardi sbloccati per far fronte alle spese correnti del paese e per ripagare i debiti in scadenza, quasi il doppio di quanto annunciato qualche settimana fa. Sul debito, però, il successo è più nelle parole che nei fatti. Un piano c'è ed è diversificato sul breve, medio e lungo periodo, ma nessun taglio, poco di più di una rimodulazione degli interessi da pagare. Tanto basterà all'FMI per tornare al tavolo del negoziato, per ora almeno. Alla Grecia invece tanti complimenti e una carta da giocare nelle mani di Tsipras. Da ora in avanti però i falchi europei saranno implacabili con l'attuazione delle riforme elleniche e cercheranno di mettere bocca anche sulle privatizzazioni. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Al centro del dibattito di politica economica invece restano le pensioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dibattito e confronto tra governo e sindacati che si muove su due temi, anticipo pensionistico e rivalutazione delle pensioni minime. Si studiano allora le misure su come intervenire sull'attuale sistema previdenziale, ma è bene ricordare che le eventuali modifiche saranno contenute nella prossima legge di stabilità e quindi non prima. Quanto agli assegni minimi, quelli fino a 502 euro, l'esecutivo starebbe lavorando a varie ipotesi, compresa quella di estendere a questi pensionati il bonus IRPEF degli 80 euro. Scatterebbero però dei criteri selettivi per ridurre la platea dei beneficiari. Altro capitolo, l'APE, l'anticipo pensionistico. Il meccanismo ruota su un sistema di penalizzazioni differenziate e per il momento focalizzato sui nati tra il 51 e il 53. Si prevede allora un taglio del 3-4% per ogni anno di anticipo, massimo 3. Il vero scoglio per questo tipo di intervento sono le risorse. Palazzo Chigi punta all'impatto zero sul sistema. Da qui l'ipotesi del ricorso al mercato del credito attraverso un bando europeo. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Unicredit, dopo il CDA di ieri l'addio, anche se non è ancora arrivato ufficialmente, di Ghizzoni alla ricerca di un amministratore delegato e soprattutto del modo nel quale rafforzare il capitale. Marco Ferrando, Il Sole 24 Ore, buongiorno, che cosa ci puoi dire? Sì, buongiorno a voi. Giorno dopo il Consiglio di Amministrazione, che come accennavi di fatto ha concordato con l'amministratore delegato diciamo le dimissioni, che formalmente non sono ancora arrivate, arriveranno quando verrà trovato il successore. Si parla di una soluzione in un paio di settimane almeno, anche perché come sappiamo vanno coinvolti i comitati interni al Consiglio, andrà ruolato un cacciatore di teste. Intanto il titolo Unicredit vediamo che ha reagito positivamente, un po' come tutti i bancari, in questo momento fa più 1,2%, sicuramente sul tavolo, insieme al nome, rimangono almeno altre due questioni, che sono da un lato l'eventuale aumento di capitale. Da mesi ormai il mercato si interroga e anche un po' ragiona sulla necessità di un aumento. Addirittura oggi è uscito un report di Kepler che dice che di fatto il titolo molto penalizzato, meno 40% da inizio anno, di fatto sconta già un aumento da 5 miliardi, quindi lo danno per sicuro. In realtà appunto l'amministratore delegato che arriverà al posto di Ghizzoni dovrà dare un messaggio chiaro o sull'aumento o sulle cessioni, che però evidentemente tutti i pezzi di cui ti privi non ti porteranno utili, e quindi evidentemente è una strategia che andrà ragionata con calma. Ti ringrazio, grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore per questo racconto e per questa analisi. Vi do una notizia che viene battuta in questi minuti dalle agenzie, riportata da alcuni quotidiani online, tra cui il Corriere della Sera e Repubblica. C'è stato un naufragio a largo della Libia ed è affondato un barcone. A bordo c'erano 590 persone, al momento si contano 7 vittime, sarebbero in corso delle operazioni di salvataggio. Le cose non sono ancora molto chiare, di certo nell'ultimo ultime 48 ore sono arrivati più di 3.000 migranti in Italia, quindi c'è stato questo ennesimo naufragio. Vedremo appunto la dimensione che avrà, ma a quanto pare ci sarebbero già notizie di donne e bambini che hanno perso la vita. Vi aggiorneremo nel corso di Effetto Giorno appena avremo maggiori dettagli. Intanto occupiamoci dell'antitrust, che oggi è intervenuto sui vaccini. Armi automatiche, siluri, razzi, missili e le relative munizioni, ancora gas lacrimogeni, apparecchiature elettroniche specializzate per l'addestramento militare, un giro d'affari di oltre 6 miliardi di euro. Tanto vale in un anno l'esportazione da parte dell'Europa di armamenti verso l'Egitto, un commercio che non conosce crisi ma illecito, denuncia Amnesty International, ricordando... Allora, come avete sentito, oggi le cose girano un po' così, Non abbiamo avuto il collegamento con Firenze, il servizio era quello sbagliato, perché come avete sentito evidentemente non parlava di vaccini ma parlava di esportazioni di armi verso l'Egitto. Occupiamoci dunque di politica e speriamo che le cose vadano bene. È alta ancora la polemica sul referendum. Sul referendum di ottobre continua lo scontro, soprattutto all'interno del PD. Se le cose vanno avanti così, tra 4 mesi ci troveremo tra le macerie del campo democratico, avverte stamattina Pierluigi Bersani, che invita Matteo Renzi a tenere conto delle obiezioni non irragionevoli del no. Per l'ex segretario, il premier dovrebbe annunciare una proposta di legge per l'elezione diretta del Senato e dare la disponibilità a modificare l'Italicum, intervenendo in particolare con il doppio turno di collegio. A tornare in campo sul referendum è anche Enrico Letta, che ieri ha accusato Renzi di aver creato un clima da corrida che fa male al paese. In un anno di governo tu non hai fatto nulla, è la replica del premier, secondo il quale i politici del fronte del no temono per le loro poltrone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La vicenda delle adozioni dei bambini in Congo. Oggi il ministro Boschi dovrebbe incontrare i rappresentanti dei genitori. Io sono qua da più tempo degli altri bambini, però non mi sono dimenticato da dove vengo. E per questo chiedo al nostro governo di far arrivare tutti i bambini del Congo qui in Italia. Con questo video appello, i bambini adottati nei mesi e negli anni scorsi in Congo, che vivono ora in Italia, chiedono che si faccia in fretta per gli altri 59 bambini già adottati da coppie italiane ma che ancora non sono riusciti a ricongiungersi con i genitori. Secondo il Comitato Genitori Adottivi Repubblica Democratica del Congo, c'è un giallo sui documenti di viaggio dei bambini. Per questo motivo il Comitato aveva organizzato per oggi e domani, di fronte alla sede della Commissione a Roma, una manifestazione. Manifestazione però che potrebbe non tenersi, visto che oggi questi genitori sono stati convocati dal Ministro delle Riforme e nuova Presidente della Commissione Adozioni Internazionali, Maria Elena Boschi. Ministro Boschi, diamoci una svegliata! Ciao. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un ascoltatore ci scrive dicendosi deluso perché non abbiamo parlato del calo del fatturato e degli ordinativi dell'industria. Non è che andiamo a gettone, però il servizio ce l'avevamo pronto, sentiamo. Doccia fredda per il fatturato, sceso del 3,6% rispetto ad un anno fa, e gli ordinativi dell'industria italiana, che seppure sull'anno fanno segnare una lieve crescita dello 0,1%, su base mensile scendono del 3,3%, a pesare soprattutto il settore dell'automobile, che negli scorsi mesi aveva sostenuto i dati e che oggi fa registrare il suo primo cedimento dal dicembre 2013, un meno 6,5% su base annua. Nel caso degli ordinativi, la discesa riguarda sia il mercato interno, dove il calo è stato dell'1,5%, sia l'estero, con un meno 5,8%. La flessione maggiore nella metallurgia, meno 13,2%. Dania Di Bitonto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico e poi, se tutto va bene, che la giornata gira un po' così, dovremmo riuscire a connetterci con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per farci raccontare un po' come stanno andando le cose sul Lungarno. Come si diceva, c'è stato un crollo di una lunga porzione di 200 metri circa proprio nei pressi di Ponte Vecchio. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della voragine che si è aperta sul Lungarno a Firenze e poi ci torneremo. Abbiamo parlato della vicenda dell'arresto dei due presunti assassini di due ragazzi, uno morto e uno sparito un anno fa in Sardegna, e questi presunti assassini hanno 18 e 21 anni. Tutto sarebbe avvenuto per la lite per una ragazza. Abbiamo parlato dell'antitrust che interviene sui vaccini. Ci siamo occupati di Unicredit, ci siamo occupati di fatturato e ordinativi dell'industria, ci siamo occupati di pensioni e prima di sperabilmente tornare a Firenze ci occupiamo di una piccola vicenda che però ci ha incuriosito e che arriva da Sanremo. Che cosa succede? Qualche tempo fa la polizia municipale, o comunque le forze dell'ordine, facendo una verifica all'interno di quei luoghi dove ci sono i venditori che cedono merce contraffatta, fermano una persona di origine maghrebina, gli trovano all'interno di una borsa tre orologi contraffatti, ovviamente tre Rolex e uno Hublot, e sostanzialmente lo mandano a processo. È solamente che questo non è un venditore abusivo, ma è un ispettore di Louis Vuitton che gira per controllare appunto le merci contraffatte. Abbiamo in linea con noi il suo avvocato, che è Luca Fucini. Buongiorno avvocato. Buongiorno, allora, buongiorno a voi. La persona si chiama Philippe Louis Sauveur Caristo, appunto di origine marocchina, di Rabat, ma vive in Costa Azzurra, quindi insomma, diciamo, anche la residenza forse avrebbe potuto insospettire le occhiute forze dell'ordine. Come vanno le cose? Cioè, di fatto è stato condannato a pagare e non solo, ma il processo prosegue. No, è stato emesso un decreto penale di condanna al quale abbiamo fatto opposizione spiegando tutta la vicenda. Quindi adesso il 5 di luglio ci sarà il processo con le testimonianze, con la produzione del documentale che testimonia il fatto che il signor Caristo lavora effettivamente per il gruppo LVMH, il gruppo che racchiude sia Hublot sia Louis Vuitton, e proprio da questo gruppo è stato incaricato per verificare la situazione della contraffazione nella provincia di Imperia, in questo caso, che è una situazione particolare perché è particolarmente diffuso la vendita di questi prodotti, con una difficoltà da parte delle forze dell'ordine veramente notevole per poter individuare da dove proviene questa merce e gli stessi venditori, che sono senegalesi. Quindi una situazione complessa. Una situazione complessa. E pare di aver capito che questa è una pratica abbastanza diffusa da parte dei gruppi internazionali, cioè di fatto degli infiltrati della contraffazione, per così dire. Beh, diciamo che il gruppo LVMH è molto attento, perché le maison le cui creazioni appunto vengono imitate hanno un danno per milioni di euro ogni anno a causa di queste mancate vendite, ma soprattutto non vogliono che la loro immagine, il loro marchio sia legato a questo fenomeno di contraffazione, perché il risvolto è molto più complesso proprio dalle indagini che hanno fatto questi gruppi di fabbricanti, che ultimamente hanno pubblicato una sorta di dossier nel quale individuano anche una frangia dei proventi dalla contraffazione che andrebbe direttamente appunto al terrorismo, ai fenomeni terroristici. Mi spiega una cosa però, in realtà teoricamente l'illecito penale il suo cliente l'ha commesso, poi come dire a fin di bene. Sì, esatto, manca completamente la volontà di che cosa? Di acquistare e smerciare, ha acquistato per verificare appunto quanto era diciamo buona questa sorta di contraffazione, quanto questi orologi Hublot erano simili e si potevano avvicinare e potevano diciamo in qualche modo indurre in inganno anche per la perfezione della contraffazione, ma era diciamo un'indagine più ad ampio raggio per verificare soprattutto chi è che vendeva questi prodotti, e sono una tribù specifica senegalese. Ecco. Una specifica tribù senegalese. Beh, va bene, la ringrazio. Grazie all'avvocato Luca Fucini. Continuiamo in questa lotta che non riguarda la contraffazione solamente i prodotti di borse, ma riguarda anche le medicine, i medicinali, anche l'alimentazione, i prodotti alimentari, a danno proprio della popolazione. Della popolazione dei consumatori. Grazie Luca Fucini, avvocato di Philippe Louis Savoir Caristo. Spero di aver pronunciato bene. Ubaldo Cianciulli da Firenze, spero a due passi dalla voragine. Ubaldo, eccoci. Un po' più lontano perché sinceramente non è che sia proprio messa in completa sicurezza. E quindi hai paura di sprofondare pure tu? Insomma, non è proprio un buchetto, nel senso sono 200 metri di lunghezza per 7-8 metri, per almeno 4 metri di profondità. Insomma, è una bella purtroppo voragine. Una bella voragine, cioè bella si fa per dire naturalmente. Sì, e ci sono stati altri cedimenti nell'arco della mattinata, mi sembra di aver capito. No, sì, per questo ti dico, bene starci abbastanza lontano, anche perché non è una situazione ferma, è una situazione ancora in evoluzione. E purtroppo era in evoluzione già da ieri sera verso mezzanotte. Infatti da alcune testimonianze è emerso che alcuni cittadini della zona avevano già chiamato ieri sera verso le 11 mezzanotte i tecnici di Publiacqua, perché c'erano delle perdite d'acqua sul marciapiede, quindi c'era già stato un intervento preventivo ieri sera, c'era già una crepa probabilmente nelle tubature e interrate, e stamani poi è successo il botto, insomma, alle 6:15, quindi, i primi interventi sono stati ieri sera, ma poi evidentemente non sono riusciti a risolvere niente, perché alle 6:30 di stamattina si è aperta questa voragine. Se avete possibilità di andare su internet, ammesso che non l'abbiate già fatto perché le foto stanno girando dappertutto, e vedrete una serie di macchine letteralmente sprofondate all'interno di questa voragine sul Lungarno, a due passi a Ponte Vecchio, Baldo, tra l'altro, no? Sì, a 100 metri da Ponte Vecchio, e tante sono le auto che sono finite nella voragine. Vi racconto questo episodio di un cittadino fiorentino che aveva l'auto da due giorni comprata, cioè aveva lì sul ciglio della voragine traballante, stava pregando effettivamente la polizia che gli salvasse l'auto, perché un'auto nuova di pacca di due giorni se la stava vedendo sprofondare giù nella voragine. Però i tecnici non potevano avvicinarsi, perché se prima non mettono in sicurezza la zona rischiano di venire tutto giù. Ora le idrovore hanno effettuato lo svuotamento della voragine, sono in corso delle analisi e delle verifiche strutturali anche con l'ausilio di sonde e diciamo che sono dalla parte dell'Arno, per vedere anche sul lato fiume che cosa sta accadendo. C'è un'inchiesta aperta dalla Procura di Firenze per incominciare a capire dove e se ci sono delle responsabilità. Il sindaco ha comunque invitato alla calma, sono stati effettuati degli approvvigionamenti di acqua nelle scuole della zona dove l'acqua è stata interrotta, mi riferisco all'Oltrarno, mi riferisco alla zona di Lungarno Torregiani e di Campo di Marte, quindi c'è anche una macchina della protezione civile che si è già messa in funzione da stamani per cercare di approvvigionare d'acqua sia con autobotti sia con bottigliette le zone, le famiglie più disastrate. Più colpite, più disastrate. E infine, Ubaldo, c'è un tema, immagino, di tempi di riapertura del Lungarno che non saranno brevi, suppongo. Non saranno brevi, e per il momento ovviamente nessuno si sbilancia, anche perché se non delimitano la zona diciamo crollata, se non dicono ok, il crollo è terminato, abbiamo riparato la tubatura, possiamo pensare di provvedere in qualche modo, per il momento non si lancia nessuno, anche perché siamo ancora nel momento di emergenza, perché la situazione è ancora in piena evoluzione, quindi finché non si completa la messa in sicurezza e capiscono dove e come intervenire, non è possibile dare tempi certi o comunque anche solo approssimativi di ripristino. Certo, è una zona diciamo turistica, una zona in pieno centro storico a Firenze, le tubature sono vecchie almeno del secolo scorso, se non ancora di più, purtroppo a Firenze, come magari anche in altre parti d'Italia, di questi incidenti ogni tanto si verificano, e questa volta ha toccato uno dei gioielli della del mondo intero, perché Ponte Vecchio, due passi nel piano centro storico a Firenze, effettivamente è una zona molto critica. E tra l'altro, e qua ti saluto Ubaldo e ti ringrazio per questo collegamento, poi andremo a vedere se riusciremo a beccare il sindaco di Firenze, che in queste ore è, immagino, piuttosto impegnato. Tutto questo tra l'altro a ridosso della stagione turistica, quindi non sarà facile per Firenze. Nello Mazzone, un giornalista, un collega del Mattino di Napoli, buongiorno Nello, benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Allora, per parlare con te di una operazione che è avvenuta questa mattina da parte del NOE dei Carabinieri, sono state scoperte 250.000 tonnellate di rifiuti smaltite illecitamente. Mi sembra di aver capito, Nello, poi ce lo spiegherai, anche sulla base di dichiarazioni di un pentito che sono arrivate un paio di giorni fa, ma con l'aggiunta che parte di questi rifiuti venivano utilizzati per realizzare dei mattoni che sono andati a costruire tutta una serie di abitazioni prevalentemente abusive, dove però a tutti gli effetti ci vive della gente, che sono delle appunto a questo punto costruite con dei mattoni depotenziati, ho capito bene? Sì, questa è l'ipotesi, anche dal punto di vista, per certi aspetti, inquietante, che fa la Procura della Repubblica di Napoli, la DDA partenopea, in base in parte alle dichiarazioni del pentito del collaboratore di giustizia Perrella, che ha continuato a portare gli inquirenti sui luoghi dove sarebbero stati seppelliti questi rifiuti, quindi parliamo della zona del Giulianese in provincia di Napoli, a pochi chilometri da Napoli insieme a Pozzuoli, e in parte però si ricollega anche a un'inchiesta del 2011 che riguardava il clan Polverino, che poi il clan più, tra virgolette, politico e imprenditoriale che c'è nella provincia di Napoli. In sostanza, secondo queste accuse avveniva questo, che da un lato per quanto riguarda i mattoni, quindi la tirizia, dall'altro lato per quanto riguarda il calcestruzzo, si mescolavano scarti di rifiuti edili con sabbia pozzolana, che non era quella destinata a realizzare i mattoni per le costruzioni, e quindi venivano fuori questi laterizi depotenziati come il calcestruzzo depotenziato, che ovviamente inquieta, perché tantissime abitazioni, per lo più abusive, sono state realizzate nell'Interland napoletano utilizzando questi prodotti che venivano imposti dal clan Polverino, dai clan di Camorra, insieme a quelli del Casertano, con i casalesi, agli imprenditori a rischio anche di subire delle gambizzazioni, piuttosto che delle minacce estorsive nei confronti degli imprenditori che si opponevano a queste forniture coatte. Questo il quadro generale. Tra l'altro, il pentito al quale riferivamo parlava di, invece, di una serie di villette, no? Proprio nell'area del Giulianese, costruite sopra questi rifiuti. Sì, questo è un altro capitolo. Fronte ancora. Sì, un altro fronte ancora, perché il pentito poi ha materialmente accompagnato gli inquirenti le scorse settimane in queste zone dove sarebbero sorte, secondo le sue accuse, delle villette sopra dei veri e propri giacimenti, tra virgolette, di rifiuti tombati. Cioè, in sostanza, dice, qui sotto queste villette ci sono dei fiumi di liquami tossici, perché lì abbiamo seppellito negli anni scorie anche di rifiuti pericolosi, oltre che ovviamente rifiuti illegali. E questo il quadro che arriva nella giornata di oggi da Napoli, e mi sembra di capire, per chiudere, Nello, che è un'inchiesta che promette ampliamenti da quel che sentiamo. Sì, sicuramente per quello che ci è dato sapere è un'inchiesta che è soltanto alle prime battute. Del resto, il fatto che venga anche da un filone del 2011, quindi oggi arriva una novità importante dal punto di vista investigativo, fa presumere che ci saranno, purtroppo, da un punto di vista anche dei cittadini della zona, molte novità su questo fronte. Ti ringrazio, grazie a Nello Mazzone, giornalista, collega del Mattino di Napoli. Noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a quest'ora a sentire che cosa succede sui mercati. Nella seconda parte della trasmissione proseguiremo il nostro giro per l'Italia, nel quale oggi abbiamo già toccato la Liguria, Firenze, come avete sentito, Napoli. Torneremo a Napoli per il viaggio di Radio 24 verso le amministrative, poi torneremo a Nuoro, dove siamo stati ieri, ma per tutt'altra vicenda. Oggi ci torneremo per la vicenda di questi due arresti per l'omicidio e la scomparsa di due giovani. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli a partire dalla notizia di poco fa: è affondato un barcone al largo della Libia con a bordo i migranti, sono almeno 7 le vittime, si temono altri dispersi, la marina italiana ha salvato al momento 500 persone, aggiornamenti appena ne avremo. Si è aperta, come vi abbiamo raccontato, una voragine sul Lungarno a Firenze, decine di auto inghiottite, la causa nei tubi dell'acquedotto che hanno ceduto, nessun pericolo per i palazzi, dice il sindaco. Una lite per una ragazza, per questo sarebbero stati uccisi due giovani un anno fa in Sardegna. Stamattina l'arresto dei presunti assassini, hanno 18 e 21 anni. Unicredit in cerca del nuovo amministratore delegato dopo l'annuncio dell'addio di Ghizzoni per il rafforzamento del capitale. Due ipotesi, aumento o cessioni. La borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, proseguiamo il nostro giro per l'Italia e ci spostiamo in Sardegna adesso. La vicenda risale ad un anno fa e tra l'altro ve l'avevamo raccontata, quello che sembrava un mistero. L'8 maggio del 2015 viene ucciso alla fermata dell'autobus Gianluca Monni, un ragazzo di 19 anni di Orune, siamo in provincia di Nuoro. Il giorno prima era scomparso Stefano Masala di un paese che si chiama Nule, siamo in provincia di Sassari ma siamo a poca distanza. Insomma, per così dire, siamo a cavallo tra le due province. Ebbene, oggi ci sono stati gli arresti dei presunti assassini e tutto sarebbe avvenuto per un diverbio partito per una ragazza. Per parlare di questa vicenda abbiamo in linea Pierluigi Piredda, che è capo servizio della Nuova Sardegna a Nuoro. Pierluigi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, come dicevamo, sarebbe tutto partito da una lite per una ragazza? Allora sì, già come è stato scritto fin dal primo momento, perché l'inchiesta è andata avanti sempre in questa direzione, tutto l'omicidio parte da un litigio cominciato molti mesi prima, addirittura a dicembre del 2014, tra il ragazzo, la vittima dell'omicidio, Gianluca Monni, e Paolo Pinna, il ragazzino arrestato stamattina per l'omicidio. Una zufanata in una discoteca durante una festa normale, una festa tra ragazzi, perché Pin avrebbe avuto dei modi scortesi aggressivi nei confronti del ragazzo Gianluca Monni. Sì. Da lì era scoppiato un litigio nella discoteca che era andato avanti per qualche tempo, c'è stato un pestaggio e la cosa è andata avanti per lungo tempo. E diciamo da lì è partito tutto, ecco. E poi una vendetta maturata a freddo, per così dire, no? Dopo un po' di tempo. Sì, esatto, perché i due ragazzi probabilmente anche causa il caso di dire purtroppo i social network hanno continuato probabilmente a beccarsi via social network, via telefonino, via WhatsApp, hanno continuato a alimentare questo contrasto fino a quando non è successo l'irreparabile. Cioè il PIN, almeno questo è quello che ci è stato detto stamattina durante la conferenza stampa che hanno fatto i magistrati, PIN col cugino Cubeddu, entrambi arrestati per concorso all'omicidio di Gianluca Monni, si sono messi d'accordo. 18 e 21 anni, 18 e 21 anni rispettivamente, esatto, ricordiamo. 18 anni PIN appena compiuti, tra l'altro, perché quando avrebbe fatto l'omicidio, Pina fa 17 anni, è una minorenne, per cui c'è la procura dei minori che sta procedendo nei suoi confronti, quindi anche questo è particolare di non poco conto. Il cugino ne ha 21, all'epoca 20 anni, quindi due ragazzini. La vittima la fa 18. Sì, e l'altra presunta vittima, perché il corpo non è stato mai, non è stato mai trovato, Masala appunto, no? Che è un amico di uno degli assassini sostanzialmente. Sì, ci voleva arrivare, Stefano Masala quel giorno della famosa zuffa da cui è scaturito poi tutto quello che è successo, era con questi ragazzi di Nule, con il ragazzo con Pinna e con altri ragazzi di Nule a questa festa. Però Masala era un ragazzo molto buono, molto tranquillo, è finito lì per lui. Invece poi qualche giorno prima dell'omicidio, diciamo una quindicina di giorni prima, è stato nuovamente richiamato, coinvolto da Pinna, che tra l'altro non usciva mai con lui. Pinna l'ha tirato in una trappola, chissà perché, forse per prendere la macchina, forse perché voleva procurarsi un alibi, e la sera è uscito con lui con la scusa di vedersi con una ragazza e Stefano Masala da quel momento è sparito. Ad aggravare la situazione, scusami se mi permetto di dilungarmi, vorrei farvi notare un particolare, sì, che purtroppo, la mamma di Masala, in seguito alla scomparsa del figlio, di cui non si è mai saputo niente, si è ammalata ed è morta ieri. È morta ieri. La e mamma oggi... di Stefano Masala è morta ieri. E oggi appunto c'è stato... Sì. E il funerale stasera, sì. E il funerale starà stasera, nel giorno dell'arresto dei presunti assassini. Io ti ringrazio. Grazie per Luigi Piredda, che è un collega giornalista della Nuova Sardegna, caposervizio della Nuova Sardegna Nuoro, per questo racconto. E sempre nel nostro giro per l'Italia ci occupiamo anche delle amministrative. Radio 24 sta facendo un viaggio, servizio nel giornale radio delle 7 e poi qua in effetto giorno. Siamo stati a Roma, a Milano. Adesso andiamo a Napoli. Napoli. È una missione ambiziosa fare il sindaco della metropoli partenopea. Servizi ai cittadini, condizione delle strade, trasporto pubblico di superficie, sicurezza, chiedono i residenti. La corsa a Palazzo San Giacomo, sede del comune, diventa di ora in ora sempre più aspra. 10 candidati sui 12 iniziali, anche se la battaglia sembra restringersi a 4 favoriti, a partire dal sindaco uscente Luigi De Magistris, insidiato dalla candidata del PD Valeria Valente, dal candidato del centrodestra Gianni Lettieri e dal grillino Matteo Brambilla. Napoli senza più emergenza rifiuti, Napoli dove i turisti sono tornati numerosi, dove c'è da giocare la partita di Bagnoli e lavorare nelle periferie. In lizza ci sono anche Marcello Taglialatela di Fratelli d'Italia, Nunzia Amura per il Partito Comunista, Luigi Mercogliano con Popolo della Famiglia, Domenico Esposito con la lista Qualità della Vita per Napoli e Martina Alboreto che si presenta per Fratelli del Popolo Italiano. Riammesso dal Consiglio di Stato lunedì scorso nella notte, il 10° candidato è Paolo Prudente del Partito Comunista dei Lavoratori. Napoli, Napoli. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E all'ascoltatore che ci chiede via WhatsApp il servizio sui vaccini, che è saltato perché abbiamo avuto un problema tecnico. Diciamo che il problema tecnico permane e comunque esaurito il tempo, e magari riusciremo a farvelo ascoltare nel pomeriggio in qualche edizione di GR24. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.